Le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore. Libia, Gheddafi non cede, precipitato un caccia americano, il pilota è stato salvato dai ribelli. Il governo italiano insiste sul comando NATO, napolitano è una soluzione appropriata. Un'altra notte di sbarchi a Lampedusa, Maroni incontra le regioni, ok all'accoglienza per 50.000. Il giallo della nave sequestrata dai libici, il rimorchiatore è tornato a Tripoli. Una buona giornata da Anarita D'Ambrosio e dalla redazione. Libia dunque sempre in primo piano, proseguono i bombardamenti ma il conflitto esplode anche tra le diplomazie per il comando dell'operazione. Partiamo però dalla cronaca di oggi. Sono almeno 40 le persone uccise nel cannoneggiamento dei carri armati di Gheddafi sulla città ribelle libica di Misurata. Lo raccontano i testimoni. Durante i bombardamenti sono rimasti uccisi anche 4 bambini. A sparare, raccontano i testimoni, ci sono anche i cecchini. Sta bene invece il pilota di un caccia americano precipitato in un campo libico a causa di un guasto tecnico. È stato subito soccorso dai ribelli. I combattimenti in Libia stanno spingendo migliaia di persone a fuggire dalle loro case e a rifugiarsi nell'est del paese. Lo racconta l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Profughi, mentre continuano a decollare dall'aeroporto militare di Trapani Tornado. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. E da Tripoli è stata ancora una notte di paura, allora noi ci colleghiamo subito in diretta con Tripoli, con Cristiano Tinazzi. Cristiano? Sì, buongiorno. Come, che notte è stata? Ma è stata una notte, un'ennesima notte di attesa per gli abitanti di Tripoli, con la contraerea che sparava verso il cielo, e questa volta le bombe sono cadute nella zona del porto, la zona militare del porto, che si trova più o meno a circa 10 chilometri dal centro di Tripoli. Oggi comunque, come al solito, la città ha ripreso normalmente a vivere, il mercato è pieno di persone, si aspetta di nuovo l'ennesima notte di bombardamenti. Ma vi arrivano le notizie delle città colpite da Gheddafi, Zintan, Misurata? Lì si parla di 40 morti, 4 anche tra i bambini. Sì, sono notizie che però arrivano dalla parte opposta, dalla zona dei ribelli, quindi non sono confermabili. Di quello che si sa di certo è che comunque stanno combattendo, sulle montagne si combatte, per certo ho informazioni che ci sono anche persone che fino a ieri erano normali docenti universitari che hanno imbracciato il fucile dopo la chiamata di Gheddafi e sono andati a combattere i ribelli, questo è vero. Però sul numero dei morti non c'è nessuna possibilità di confermare i dati. Insomma, è una città, Tripoli, che al calar della sera si svuota completamente. Sì, si svuota anche se la gente comunque, il primo giorno la gente aveva paura e gli altri giorni poi, le altre notti poi la gente è scesa nelle strade, suona con le macchine, cercano di darsi coraggio, comunque è una situazione nella quale si sentono completamente isolati dal resto del mondo qui a Tripoli e quindi cercano di darsi coraggio l'un l'altro andando anche nei luoghi simbolo dei possibili obiettivi strategici come la caserma di Bab el-Azizia, che tutte le sere comunque è piena di gente che l'hanno aperta al pubblico e le persone vanno lì. Cercano di vivere una vita dunque normale? Sì, sì, si vede proprio la differenza tra la notte e il giorno, perché al mattino poi l'attività riprende, funzionano le scuole, le farmacie sono aperte, il mercato, la gente cerca di vivere normalmente, chiaramente sempre con l'ansia che poi la notte, quando scende la notte, inizia il fuoco del contraerea, tutti si aspettano che cadano le bombe, chiaramente le persone hanno paura. Grazie a Cristiano Tinazzi in diretta da Tripoli per averci fatto sentire anche gli umori della città. In primo piano ci sono anche le tensioni diplomatiche, il ruolo dell'Italia che continua a chiedere l'intervento della NATO. Poco fa è intervenuto anche il capo dello Stato che l'ha definita una soluzione appropriata. Il dibattito è in corso e non sono state confermate ancora le parole di ieri del premier Berlusconi, che si sarebbe detto addolorato per il Rais. Stefano Folli oggi lo ha scritto sul Sole 24 Ore: l'Italia ha un imperativo, contare di più. È così, Stefano? Stefano è in collegamento con noi. Sì, contare di più significa riportare tutto, diciamo, il quadro delle operazioni militari dentro la struttura della NATO evitando quindi che ci sia una sorta di leadership sul campo della Francia. Questo mi sembra essere in questo momento l'obiettivo italiano, che viene perseguito con qualche difficoltà, anche perché sappiamo che la maggioranza non è del tutto unita, anzi c'è un distinguo forte della Lega, e però è importante per esempio che oggi il Presidente della Repubblica, direi essenziale, il Presidente della Repubblica abbia fatto sentire la sua voce proprio a sostegno della posizione del governo favorevole alla NATO, e che su questo c'è una sorta di unità nazionale, perché il Parlamento, al di là del distinguo della Lega, è sostanzialmente unito in questo momento a sostenere la missione italiana in Libia. Occorrerà un dibattito in Parlamento, e io mi sono anche permesso di scrivere che è opportuno che sia il Presidente del Consiglio a intervenire, a illustrare la posizione del governo e non un ministro. Ecco, adesso leggiamo dalle agenzie, Stefano, proprio in questo momento, che il dibattito sulla Libia in Senato si terrà domani pomeriggio. Questo lo hanno comunicato i vice capigruppo. Tu parlavi della posizione della Lega, che a questo punto è fondamentale. La Lega, Bossi è intervenuto subito con delle parole inequivocabilmente contrarie a questo intervento italiano. Poi Calderoli ha un po' abbassato i toni, poi ogni tanto si alzano e si abbassano. Cioè, secondo te che cosa può succedere? Ma la Lega è un po' incerta naturalmente su come muoversi, e a me sembra che però anche il Premier sia un po' incerto, e questo spiega anche queste affermazioni che vengono così fatte e che possono apparire un pochino singolari, no? Questa frase poi non confermata sul dolore per Gheddafi, l'altra frase però detta è quella sul fatto che i nostri aerei non spareranno mai, cose un pochino strane da dirsi nel pieno di un'azione militare, e in cui noi poi chiediamo appunto l'impegno della NATO, cioè in qualche modo chiediamo che ci sia un riconoscimento più forte della strategia militare. E quindi tutto questo andrà chiarito, per esempio vedo sullo sfondo anche la posizione americana, che non è del tutto limpida, perché da un lato fino adesso l'America ha esitato a sostenere la posizione di chi chiede l'intervento della NATO, Obama ha parlato più genericamente di un coordinamento, vedo che oggi Gates, che ha avuto incontri con i suoi colleghi russi, ha parlato di operazioni militari che sono destinate a ridursi drasticamente nei prossimi giorni, anche questo non va tanto nella direzione di chiedere e di ottenere un coinvolgimento della NATO, quindi le nostre incertezze che esistono e che si riflettono nel dibattito politico interno, però sono anche un po' le incertezze internazionali, e questa dimostra che siamo arrivati un po' a un punto di svolta di questa guerra, di questa crisi. Grazie a Stefano Folli per la sua analisi sempre puntuale sulla situazione. E allora noi andiamo subito a Roma adesso per sentire la cronaca politica della giornata da Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano interviene sulla crisi libica e sposa la soluzione del governo. Il comando NATO rappresenta la soluzione di gran lunga più appropriata, dice il Capo dello Stato, e ribadisce l'esigenza imprescindibile sostenuta dall'Italia. Palazzo Madama e Montecitorio si preparano a votare la risoluzione per il via libera definitivo all'attacco sulla Libia. Appena terminata la riunione dei capigruppo al Senato, si voterà domani pomeriggio alle 17. In aula ci sarà il Ministro degli Esteri Franco Frattini. L'Italia resta ferma sulla richiesta di assegnare alla NATO il comando e la gestione della guerra in Libia. Si lavora ad una risoluzione comune insieme alla Lega e con tutta l'opposizione, almeno questa sarebbe la volontà del governo, secondo il ministro della difesa Ignazio La Russa. Ma dal PD si chiede la presenza del premier Silvio Berlusconi nell'aula di Palazzo Madama, altrimenti si voterà contro. Ancora riunita la capigruppo qui alla Camera, domani a Montecitorio ci sono già altre 5 mozioni da votare, tra cui quella della Lega sui flussi migratori, da suddividere con gli altri paesi dell'Unione Europea. Infine da ricordare la frase del premier Silvio Berlusconi, che sta suscitando molte polemiche da parte dell'opposizione. Berlusconi si è detto addolorato per Gheddafi, ma sentiamo le posizioni dell'opposizione nel servizio. Le opposizioni insistono e sollecitano un dibattito in Parlamento sulla missione in Libia. Al governo chiedono di definire meglio in aula le condizioni del nostro intervento. Vogliamo che il Parlamento si pronunci in maniera chiara sulla volontà del nostro paese e sul ruolo che intendiamo svolgere all'interno della missione autorizzata dall'ONU, ma i tanti distinguo del nostro governo non aiutano, sostiene la democratica Sereni. Anche per l'Italia dei Valori a decidere e vigilare sulla nostra partecipazione deve essere il Parlamento e non un governo che fino a pochi mesi fa baciava le mani a Gheddafi, dice Donadi. A far discutere intanto sono anche le parole di Berlusconi, che ieri sera si era detto addolorato proprio per Gheddafi. Siamo addolorati per le migliaia di donne e uomini assassinati dal leader libico, non certo per la sua sorte, scrive oggi sul suo blog Casini dell'UDC. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Grazie dunque Elisabetta Fiorito ed Andrea Viali per questi aggiornamenti da Roma. C'è ovviamente anche il fronte del no, quello nettamente contrario all'intervento. ARCI, FIOM, Federazione della Sinistra, Italia dei Valori e Sinistra Ecologia e Libertà, con l'adesione di Emergency, hanno organizzato un presidio a Milano per chiedere lo stop ai bombardamenti. Il presidio si riunirà alle 18 in piazza San Babila. Ed il fronte immigrazione resta caldissimo, con Lampedusa oramai al collasso. All'alba ci sono stati nuovi sbarchi, però c'è stata una riunione al Ministero dell'Interno che sta cercando di trovare una soluzione che sembra sia stata trovata. Ce lo racconta in diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Regioni pronte ad accogliere fino a 50.000 profughi che secondo le stime del Viminale potrebbero arrivare dal Nord Africa, è quanto emerso da questa riunione durata oltre due ore qui al Viminale tra il Ministro Manone e i rappresentanti degli enti locali. Un piano di emergenza umanitaria che sarà presentato con tutti i dettagli nei prossimi giorni, ma sentiamo intanto la voce di Maroni. Piano di emergenza per accogliere fino a 50.000 profughi che dovessero arrivare dalla regione nordafricana, come accoglierli, come sistemarli, partendo dal principio di solidarietà, per cui tutti i territori, tutte le regioni devono sentirsi coinvolte in questa azione umanitaria. E dunque i profughi verranno spalmati su tutto il territorio nazionale. Quanto ai criteri, si terrà conto del numero di abitanti di ogni regione, ma anche di alcuni correttivi a seconda dei problemi e della capacità di accoglienza di ogni singola regione. Un piano che prevede un notevole impegno di carattere finanziario, ha detto Maroni, ricordando però che il Consiglio dei Ministri ha rifinanziato il fondo della protezione civile che serve a questo scopo. Disponibili, come dicevamo, si sono detti tutti i governatori, pur se con qualche distinguo dei leghisti. Valuteremo il piano del governo, ha detto il presidente della regione Veneto Zaia, con i giusti correttivi, precisando che il Veneto accoglierà solo profughi libici, che al momento sono zero, e non migranti provenienti dalla Tunisia che sono illegali. Quanto alla situazione particolare di Lampedusa, Maroni ha assicurato che i migranti, gli stranieri, verranno presto spostati dall'isola e che ci saranno misure compensative di carattere economico per gli abitanti che hanno subito e che stanno subendo forti disagi. Dal Viminale per ora è tutta, voi la linea. E prima di chiudere questa pagina, diciamo che è salita di molto anche la tensione nello Yemen. Il presidente Ali Abdullah Saleh ha avvertito i comandanti militari che nella penisola arabica vi potrebbe essere una guerra civile a causa di quelli che ha definito tentativi di colpi di Stato nel paese. Oggi si registrano scontri e vittime, due militari sono morti. Le 13:18 minuti, i nostri titoli. Libia, Gheddafi non cede, il governo italiano insiste sul comando NATO napolitano, è una soluzione appropriata. Un'altra notte di sbarchi a Lampedusa, Maroni incontra le regioni, ok all'accoglienza per 50.000. Accordo Lactalis Fondi Esteri, acquisito il 29% circa di Parmalat. Giappone, sale il livello radioattivo a Fukushima, nuove scosse, la terra trema ancora. Adesso apriamo questa seconda parte parlando del caso Parmalat, che è sempre più francese. Ci aggiorna in diretta Deborah Rosciani. Deborah. Sì, buongiorno. È decisamente il caso di borsa. Dopo la richiesta avanzata dalla Consob di chiarire gli obiettivi della quota già detenuta dal gruppo francese proprietario della Galbani, pari al 13,7%, dopo la nuova polemica scoppiata su questa avanzata francese a Collecchio, vista con timore ma a questo punto ormai evidente, stamattina i francesi hanno comunicato, i francesi di Lactalis hanno comunicato comunicato di aver raggiunto un accordo per comprare dai fondi di investimento Zenith Asset Management, Skagenhas e Mackenzie Financial Corporation le loro quote detenute in Parmalat al prezzo di 2,80 euro per azione. Si parla di una quota del 15,3% complessivo del capitale del gruppo di Collecchio e con questa operazione i francesi salgono al 29% di Parmalat. A questo punto si avvicina la soglia del 29,9% che renderebbe obbligatorio il lancio di un'offerta pubblica di acquisto su tutto il capitale del gruppo agroalimentare italiano ed è chiaramente sembra abbastanza chiaro che sembrano sostanzialmente neutralizzate le possibili iniziative di cordate italiane, ma non è detto, la più probabile delle quali era quella formata da Banca Intesa e il gruppo Ferrero, che a questo punto devono alzare più dettagliatamente le loro carte e scoprire le loro intenzioni. La reazione del titolo, dicevamo, gli operatori dicono manca a questo punto l'appeal speculativo, il gruppo è stato sospeso momentaneamente dalle contrattazioni in avvio di seduta, poi è ripartito, ha avuto un rialzo di circa 1,5 punti, adesso invece perde quasi 6 punti percentuali. Quello che è certo è che si prevede per il 12 aprile un'assemblea degli azionisti di fuoco. Anna Rita. Grazie a Deborah Rosciani. Dunque, motivi di tensione economici tra Italia e Francia, ma ci sono anche i motivi di tensione legati alla crisi libica. Ebbene, c'è stata una nuova puntata in questa vicenda perché è in corso a Parigi una conferenza stampa della portavoce del Ministero degli Esteri francese, la quale ad una domanda sul contributo della NATO per prendere le redini dell'operazione in corso contro la Libia ha detto che l'intervento NATO è solo un'opzione e anzi ha definito polemiche artificiali quelle che si stanno facendo e quindi coinvolgono anche il nostro paese. Insomma, le tensioni diplomatiche intorno a questa operazione continuano e poi c'è il fronte ritorsione, il fronte della paura nei confronti dell'Italia. Su questo fronte c'è il caso del rimorchiatore italiano che è fermo al porto di Tripoli. A bordo ci sono 11 membri dell'equipaggio, tra i quali 8 italiani. Una telefonata durata pochi minuti, piena di emozione, però quella che Luigi Chiavistelli, il comandante di questo rimorchiatore ASO 22, è riuscito a fare alla moglie Maria Chiavistelli. L'ha intervistata Cristina Carpinelli. Mi ha detto che stanno bene, che le hanno restituito il telefono, nient'altro. Pochi minuti. Sono un pochino più tranquilla perché l'ho sentita. Quando l'ha sentito, se lo aspettava di sentirlo, che cosa vi siete detti? No, non me l'aspettavo perché non sapevo quando. Speravo che mi chiamasse al più presto. Mi ha chiamato stamattina e quindi mi ha detto che sta tutto bene, che lui sta bene, anche l'equipaggio, che le avevano appena restituito il telefono e potevano comunicare con la famiglia. Signora, avete parlato della possibilità di un ritorno a casa imminente nelle prossime ore? No, in questo senso no, non mi ha detto niente perché non sa neanche lui. Non so niente da rispondere perché non so altro. Cioè, l'unica cosa che mi ha rassicurato di sentirlo e che sta bene, questo è l'importante. Non gli hanno fatto male, diciamo, nel corso di questi giorni? No, niente, non ha detto niente. E poi non credo, che dalla voce lo sentivo abbastanza bello. Ancora un aggiornamento sulla Libia, domani abbiamo detto il dibattito in Senato, invece giovedì mattina ci sarà il dibattito sull'operazione libica anche alla Camera. Noi però adesso ci trasferiamo in Giappone per l'allarme radioattività, complice la pioggia di questi giorni, i livelli fuori norma sono stati rilevati in 47 prefetture, tra cui quella di Tokyo. Sale intanto il bilancio delle vittime del terremoto e dello tsunami, sono oltre 21.000. Noi ci colleghiamo in diretta con l'inviato del Sole 24 Ore, Stefano Carrera. Stefano, dove ti trovi? Sì, buongiorno. Io ho appena lasciato la città di Fukushima, il capoluogo della provincia, che si trova a 60 km di distanza dalla centrale. E l'ho fatto in coincidenza con due fatti. Una scossa di terremoto forte, ma ormai qui siamo in ordinaria amministrazione, e una notizia invece positiva dell'ultima ora. L'allacciamento alla rete elettrica esterna di tutti e 6 i reattori della centrale. Un'operazione indispensabile alla stabilizzazione dei reattori attraverso un ripristino di sistemi continui di raffreddamento. Un atto preliminare, dunque, ma visto che negli ultimi giorni c'era stato un continuo susseguirsi di notizie sia positive che negative, il mondo intero spera che si avvicini ormai a un allentamento di questa crisi nucleare. Eppure questa mattina Fukushima, città, si era svegliata con la notizia che i livelli di radioattività nell'aria erano saliti addirittura circa 1600 volte il normale, anche se non sono ancora direttamente dannosi per la salute. Inoltre la TEPCO, la società di gestione della centrale, aveva confermato i livelli di reattività nell'acqua del mare. mentre il latte della zona non si può più commercializzare, gli agricoltori sono disperati perché non possono più vendere alcune verdure e i prezzi di altri vegetali sono crollati. Fukushima comunque non è certo una città fantasma o maledetta come qualcuno ha fantasticato, è una città con un'attività economica ancora molto ridotta ma in ripresa, dove la gente cammina con le mascherine al volto ma non sembra avere paura. È tutto, vi restituisco la linea dalla provincia di Fukushima. Grazie, grazie a Stefano Carrera. Noi torniamo in Italia, parliamo di cronaca, tangenti per appalti pubblici. Un'inchiesta della Procura di Milano investe l'amministrazione di Buccinasco, comune dell'Interland Meneghino. Ecco le contestazioni dei magistrati. A volte erano soldi versati con bonifici, altre favori come il prestito di una Ferrari, in una parola erano tangenti. Tangenti in cambio di appalti, appalti per l'illuminazione, l'edilizia popolare o la cura del verde. Con l'accusa di corruzione e falso in atto pubblico è stato arrestato il sindaco di Buccinasco nel milanese, Loris Cereda del PDL, insieme a lui altre 5 persone indicate da Fabrizio Rella della Guardia di Finanza. Un assessore, un consigliere comunale, un commercialista, un costruttore edile e un dirigente di un ipermercato. 10.000 euro per 8 appalti da circa 1 milione in totale, le presunte tangenti mascherate secondo gli inquirenti da finte consulenze per il sindaco, e direttamente a lui sarebbe riconducibile almeno una delle società più spesso vincitrici delle gare, ufficialmente intestata al suo commercialista. Tutto parte da un esposto come quello presentato dall'ex sindaco Maurizio Carbonera. Mi era arrivata una lettera anonima che riportava una serie di situazioni riferite all'assegnazione dei lavori dell'illuminazione pubblica. Qualche giorno prima era dimesso il presidente della commissione lavori pubblici. Al momento si esclude l'ombra dell'Andrangheta, che ha negli anni però trasformato Buccinasco nella Platì del Nord, per dirla con un'intercettazione dei boss calabresi. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Un sindaco che finisce nei guai proprio nel giorno della 14ª edizione di Monitor Città, la classifica dei sindaci più amati d'Italia. Renzi, Tosi e Chiamparino si confermano i sindaci più amati d'Italia, con qualche cambiamento sul podio. Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, in questa tornata deve dividere la vetta con il primo cittadino di Verona, Flavio Tosi. Il loro gradimento, 68,1%, è infatti risultato singolarmente identico. Dietro di loro, medaglia d'argento appunto per il sindaco di Torino, nonché presidente dell'ANCI, Sergio Chiamparino. Nello studio Monitor Città, realizzato ancora una volta da Full Research, è una new entry ad aggiudicarsi il terzo posto, il sindaco di Sassari, Gianfranco Ganau. La classifica semestrale comprende solo i primi cittadini che hanno raggiunto almeno il 55% dei consensi. Sono in tutto 42, 27 di centro-sinistra, 15 di centro-destra, 19 sono del nord Italia, 9 del centro e 14 del sud. Tra questi ultimi scala la classifica dalla 12ª posizione all'8ª Michele Emiliano, sindaco di Bari. Così spiega il consenso ottenuto. Io credo che la cosa più importante sia stata il mantenere le promesse, cioè dire una cosa e farla. Siamo stati di recente a Washington con l'orchestra del Petruzzelli e persino lì, attraverso Wikileaks, parlavano di Bari, parlavano dei sacrifici che questa città sta facendo per reggere questa sua condizione di città del sud, che però non si arrende e lotta con tutte le sue energie. Non solo i baresi mostrano di apprezzare il loro sindaco, ma anche i salernitani. Vincenzo De Luca è infatti salito dal 10° al 9° posto, ma nella classifica dei magnifici 42, nota dolente, non c'è neanche una donna. Natascia Turato, direttore generale di Full Research, che ha condotto la ricerca. Chiaro che il numero delle donne che sono prime cittadine sono molto poche. Poi quelle che ci sono, ovviamente, nonostante Letizia Moratti sia sempre stata presente nella nostra classifica e quindi difendeva la bandiera, questa volta non c'è. Se il sindaco di Milano è fuori dalla classifica, quello di Roma potrebbe seguirla. Gianni Alemanno è infatti crollato nella scala dei consensi dal 3° al 19° posto. Roberta Pellegatta, Radio 24 e Sole 24 Ore. Prosegue la settimana dedicata da Radio 24 alle difficoltà e alla crisi dei teatri italiani, avviando il dibattito sugli interventi d'emergenza e sulle proposte da cui ripartire. Oggi un'importante conferenza stampa a Roma. Sentiamo. Sensibilizzare i cittadini, l'opinione pubblica e i rappresentanti politici ed istituzionali su uno stato di crisi della cultura italiana che viene definita senza precedenti nella storia della Repubblica e sui possibili interventi per uscire dall'emergenza. Questo è l'obiettivo delle 3 giornate per la cultura e lo spettacolo in programma i prossimi 26, 27 e 28 marzo. Nel corso delle 3 giornate sarà messa in atto una campagna nazionale di comunicazione tesa ad affermare la centralità della cultura nelle politiche economiche e sociali del nostro paese, così il presidente di Federculture Roberto Grossi. Settore dello spettacolo che ha ricevuto un taglio di oltre il 40% non potrà nei prossimi mesi garantire l'apertura di, parliamo di teatri, parliamo di fondazioni liriche, parliamo di tutti gli operatori dello spettacolo. Però non dimentichiamoci anche che la stessa attività di tutela sancita dalla Costituzione è a rischio. A pagare le difficoltà del momento anche il mondo del cinema, Paolo Protti dell'AGIS. L'impatto negativo che noi non vogliamo prendere in considerazione è quello di una situazione di messa in crisi di alcune centinaia di imprese e alcune migliaia di lavoratori. Sono a rischio quindi imprese e posti di lavoro. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed è tutto per questa edizione. Annalitta D'Ambrosio e Pietro Lacorte in regia vi lasciano l'ascolto di Italia in Controluce. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.